con il fotografo Marco Gualazzini per parlare della sua mostra dal titolo Resilient a Milano al Forma Meravigli dal 31 gennaio al 24 marzo 2019. Marco, ben trovato. Ciao, buongiorno. Ci presenti questa mostra? Questa mostra è una conseguenza non dovuta e assolutamente neanche scontata del libro, perché nasce prima il libro, Resilient, Resiliente, che raccoglie una decina d'anni di lavori realizzati in Africa, in crisi umanitarie. Roberto Koch, Alessandro Mauro, poi mi hanno invitato a esporre parte del libro qui a Forma Meravigli. In quanto fotografo sono disposto, come puoi immaginare, in un'ora per esporre qua le foto, perché questo è l'arrivo, la prosa, ecco. Di quante foto consiste? Allora, la mostra è di 30 immagini in formato 40x60 più tre immagini fuori formato di 1,87 m per il lato lungo, quindi sono tre foto abbastanza grosse, ecco, un po' sono osservate. Che periodo ricoprono? Dal 2009 i primi scatti sono stati realizzati in Congo nel 2009 e gli ultimi sono stati realizzati in Chad nel 2018, quindi proprio una decade completa, attraverso crisi umanitarie molto diverse anche tra di loro. Resilient infatti è più teniamo presente che la spina dorsale del lavoro è il trauma africano. La resilienza è il fil rouge che lega queste storie, che più delle volte, se non il fatto che siano storie di violenza, di guerra, di carestia, più delle volte non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, perché in modo molto semplice il Congo ha delle problematicità che non è la Somalia ha un estremismo islamico, ha avuto delle carestie, il Congo invece è una zona molto rigogliosa, però non ha tra tutti i problemi che ha, non ha l'estremismo islamico, adesso c'è in corso un'epidemia di Ebola, ci sono 50 gruppi armati, è una zona molto rigogliosa rispetto della Somalia che invece è una zona arida. Il termine resiliente mi è sembrato il termine più appropriato per poter spiegare queste storie, perché a forza di andarci, non fermandomi magari soltanto su così l'impatto iniziale che ho avuto, calpestato da una sorta di ignoranza mia, occidentale, diciamo, ho imparato a vedere piccole sfumature come forma di resilienza, ad esempio. Per i somali, una fotografia o una fotografia di una ragazza impiccata sulla spiaggia del Lido di Mogadiscio, a rileggerla a posteriori, questa fotografia rappresenta perfettamente la resilienza. Perché la Somalia è in guerra dal 91, quindi per quello che per noi è una cosa normalissima, no? Sabato è una bella giornata, andiamo al mare, per le vacanze estive cosa facciamo? Andiamo al mare, no? Una cosa normalmente Sì. dice. Per un altro popolo come la Somalia, come per un ragazzo nato nel 91, nel 92, che è cresciuto e vissuto soltanto nella guerra e crede che quella sia l'unica realtà possibile, l'andare al mare assume un significato ben diverso, un significato inusitato, un significato di resilienza. Somalia, Congo, Chad, queste sono le aree geografiche? Nigeria, Mali, è un po' la prima fascia subsahariana, la prima, cioè, quindi quella sotto appena l'Africa del Nord, la cosiddetta, anche se è un termine obsoleto, l'Africa nera, la prima fascia, e la parte forse più dell'East Africa, se vogliamo, anche se poi c'è il Mali e il Ciad che iniziano a entrare già in West Africa. Quali sono le emozioni più forti che ti ha suscitato questo viaggio? Ma guarda, sono talmente tante, adesso non credo, guarda, una cosa sulla quale proprio mi sto imponendo molto è il fatto di non confondersi, di non spostare l'attenzione su di me o sull'estetica di queste fotografie. perché non stiamo parlando di un artista, non stiamo parlando di opere d'arte, stiamo parlando di un fotografo. La fotografia è uno dei mezzi, se non il mezzo per eccellenza, per registrare il reale, in quanto mezzo per eccellenza per registrare il reale attraverso l'esperienza del fotografo. Queste fotografie rappresentano persone reali che hanno un nome e un cognome, che stanno vivendo delle tragedie. Quindi io direi che quello che provo io, quello che penso io, la domanda che mi fate, non, scusami, lo dico con tutto il rispetto, però non credo che sia il centro di questo lavoro. Credo che sia più importante capire che cosa provano queste persone, che cosa ci sono, rimangono là. Io adesso sono qui a parlare con te al cellulare, siamo tutti un caffè, siamo sereni, siamo tranquilli, non proviamo la carestia, non proviamo la fame. Queste persone invece sono ancora là. Allora, da un altro punto di vista, quali sono le responsabilità di potenze che vengono da fuori rispetto a queste tragedie che nominavi? Guarda, non è un segreto che ad esempio dietro le crisi congolesi ci siano delle nazioni che a loro volta siano manipolate dagli Stati Uniti piuttosto che dalla Cina. L'estrazione di una delle problematicità, soprattutto il principale del Congo, è il fatto che viene dell'estrazione mineraria, che poi dopo rimane ben poco a loro, e per cercare di sfruttare il loro territorio. In qualche modo viene fomentato magari l'occhio etnico tra tutti e tutti, che è una cosa che si protrae dal genocidio del Ruanda e dicendo. Quindi mantenere uno Stato nel caos è più facile poi in un qualche modo poterlo sfruttare, poterlo manipolare. Poi adesso io non mi sento, io sono un testimone sul terreno, non mi sento di fare della geopolitica, non mi sento di azzardare delle cose e metterle nero su bianco, perché non è proprio il mio ruolo. Ci sono delle persone più competenti di me che sono in grado di parlarne meglio, che magari con dei dati più concreti alla mano. Io parlo del ground level, delle persone, dei civili, perché sono discorsi, domande che mi fanno già un po' oltre, secondo me, le mie competenze. Posso azzardare a darti delle risposte come quelle che ti ho appena dato, però Sì, sono sì. un po' in punta di piedi. Marco, per saperne di più, ci lasci dei riferimenti web sulla tua attività? Sì, esiste. Allora, io sono un fotografo dell'agenzia Contrasto, quindi si trova il mio portfolio, le mie referenze sul sito di Contrasto. Io ho un sito mio che è il mio nome e cognome, che è marcoguadagnini.com. Poi penso che Google al giorno d'oggi non nasconda niente. Ok. E allora ricordiamo la mostra a Milano al Forma Meravigli dal 31 gennaio al 24 marzo 2019 dal titolo Resilient. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Marco Gualazzini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Guarda, ti ringrazio molto. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.